la vita e l'universo, tutto quanto sulla sponda del fiume. Prego il vostro Dio che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute, difettosi fiori rossi al suolo. La vita che va è la vita che va, è la morte che viene, ma un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na na na na na na na na na na na na na na na na, per farmi coraggio. E ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio: morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene, esercizi di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anonesco, condannato per l'eternità a girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo. Che risposta ci suggerirà questo vento dislessico? Degli eventi, quale magia fa sì che ancora si canti? Volare o oh, volare o oh, che poi ci si perda nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili segni di croce di chi aspetta la guerra per morire in pace. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione del morire insieme. Riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia, riciclo un'immagine di te fra le mie braccia e canto na na na na na na na na na na na na na na na na sotto la doccia. E ripenso le due o tre cose che mi fanno davvero annegarti negli occhi, rubarti il respiro. È la vita che va, è la vita che va, un'altra piccola morte che viene, esercito